Hashtag Autotrasporti. Buon pomeriggio da Andrea Ferro, eccoci all'appuntamento del lunedì con le notizie dal mondo dei trasporti e della logistica. Una fotografia di questo mondo è stata scattata dall'Osservatorio Congiunturale Trasporti dell'Ufficio Studi di Confcommercio, realizzato in collaborazione con Conftrasporto. Secondo i dati raccolti, nel 2019 il traffico passeggeri è aumentato del 2,5%, segno più, ma potremmo dire di poco, per il traffico merci. L'incremento infatti è stato dello 0,5%. A coordinare l'ufficio studi di Confcommercio è Mariano Bella, che è collegato con noi. Buongiorno. Buongiorno, grazie per l'invito. Allora, come spieghiamo questi ritmi di crescita diversi? Ma intanto, come diceva lei, c'è il segno più sia sulla mobilità dei passeggeri che su quella delle merci. Ma se guardiamo gli ultimi 4 anni, questi segni più in termini assoluti si riducono, come effettivamente si riduce la crescita economica. Il 2019 è stato un anno eccezionalmente brutto per l'economia italiana, c'è poco da fare, si chiuderà a più 0,2 o più 0,1 e la mobilità segue o anticipa questi trend. Per i passeggeri abbiamo ancora una crescita trainata da una delle poche cose vitali e funzionanti del nostro sistema economico, il turismo. Contesto depresso che vediamo meglio dalle merci, che sono più correlate all'attività economica e al commercio internazionale. E qui si innestano diversi temi. Ferro, mare e aereo perdono, sebbene ci sia questa, diciamo, poi illusione, questo mantra della diversione modale di spostare le merci dalla strada da qua che dall'altra parte, ancora non ci sono gli strumenti concreti per farlo e quindi la strada continua a crescere. Se cresce, anche se di poco, 2%, quando l'economia va così, figuriamoci che cosa può succedere alla strada quando l'economia, si spera, anche se improbabile, tornerà a crescere. L'altro aspetto abbastanza, diciamo, problematico è che è il commercio internazionale, le esportazioni tutto sommato tengono, che chiede un po' di trasporto in più a parità di livello dell'attività economica, ed è questo che ha sostenuto un po' la crescita delle merci. L'osservatorio ha anche focalizzato un processo, diciamo così, di trasformazione in atto ormai da qualche tempo che riguarda i numeri e la struttura delle imprese di autotrasporto. Bella. Le imprese complessivamente si riducono, ma quelle organizzate in forme più adeguate alle sfide competitive della società globalizzata, cioè le società di capitali, quelle crescono non solo in quota ma anche in valore assoluto. Questo vuol dire che il mondo dell'autotrasporto, ma anche della logistica, del magazzinaggio, delle attività complementari fondamentali, non è un mondo fermo, non è un mondo che aspetta input dall'esterno, ma si muove piuttosto bene, appunto, anche in termini organizzativi, che sono fondamentali. L'altra cosa che io terrei a dire è l'aspetto delle attese, del mood delle aziende dell'autotrasporto. Ecco, purtroppo negli ultimi 6 mesi del 2019 abbiamo registrato i dati più brutti negli ultimi 4 anni, sia in termini di percezione del business della propria impresa negli ultimi 6 mesi, sia in termini di prospettive, di attese per i prossimi 6 mesi, ma rimane sempre un aspetto stimolante, un aspetto di vitalità. Cioè, mentre gli imprenditori dei trasporti sono più negativi sul passato, sono meno negativi sul futuro, e questa è una caratteristica irrinunciabile degli imprenditori. Mariano Bella, Ufficio Studi Confcommercio, grazie e buona giornata. Grazie a voi. Altri numeri arrivano da Asso Aeroporti e riguardano il traffico di merci sugli aerei, e qui c'è il segno meno per il secondo anno consecutivo. Nel 2019 il calo è stato del 3,2%, complessivamente sono state trasportate 1,1 milioni di tonnellate di merci. Tornando all'autotrasporto, siamo partiti con la fotografia generale del settore e ora zoomiamo su un territorio. Andiamo lungo la costa adriatica, andiamo nelle Marche. Collegato con noi Riccardo Battisti, che è il presidente di CNA Fita Marche. Buongiorno anche a lei. Buongiorno a lei e agli ascoltatori tutti. Recentemente anche voi avete presentato i risultati del monitoraggio dell'autotrasporto nella regione. Prima con Bella si diceva del numero delle imprese in calo. Dai vostri dati, leggo, nelle Marche in 3 anni si contano circa 250 imprese in meno, erano quasi 4.000, oggi sono 3.749 e soprattutto a chiudere sono state le imprese individuali, i cosiddetti padroncini Battisti. La crisi ha, la trasformazione economica della regione ha portato quindi a una trasformazione anche delle imprese di trasporto, le quali sono diminuite in numero, hanno migliorato forse le performance per quanto riguarda il fatturato individuale, ma hanno mantenuto nel tempo il mercato rispetto a quelle che poi erano le variazioni che avvenivano, rispetto anche a proprio tipologie di prodotti che venivano a mancare direttamente, perché se pensiamo che nella regione tutta la filiera del bianco o la filiera del mobile si è completamente trasformata e ridimensionata. In questo contesto, nelle Marche, come per le regioni della dorsale adriatica, si inseriscono le conseguenze di un deficit infrastrutturale pesantissimo. La questione A14, con le carreggiate ridotte e la chiusura ai tir del viadotto Cerrano a nord di Pescara, è diventata un'emergenza nazionale che in questo programma raccontiamo da settimane. Battisti, facciamo il punto anche su questo. Purtroppo le Marche negli anni, soprattutto in alcuni tratti, hanno mancato completamente la progettualità delle infrastrutture. Ci troviamo in momenti emergenziali come quelli attuali a dover affrontare una situazione gravosa per i cittadini, per le imprese e ovviamente anche per quelle imprese che sulla strada hanno, come dire, nella strada hanno uno dei loro fattori di produzione e quindi per un'azienda di trasporto un elemento di produzione oltre il veicolo è la strada. Non esistendo le strade idonee si perde mercato, il che sarebbe, come dire, vale per tutti quelli che devono transitare lì. È vero sì, però tutte le piattaforme logistiche, quelle poche che sono in quelle realtà, soffrono tantissimo e rischiano di vedere, come dire, perdere la propria appeal anche nei confronti dei committenti, perché poi i grandi gruppi non possono direttamente decidere di spostare le loro piattaforme da una zona piuttosto che l'altra. È la zona appunto coinvolta da queste difficoltà che ormai si protraggono nel tempo. Il sequestro è stato uno degli elementi. Abbiamo momenti che si ripercorrono purtroppo e creano problemi alla collettività in generale e alle imprese di trasporto in particolare. Riccardo Battisti, presidente di CNA Fita Marche, grazie e buona giornata. Grazie, buona giornata a tutti. In tema di infrastrutture, certamente non c'è solo l'emergenza sulla 14, un altro fronte caldo è in Sicilia. Sulla 19, Palermo-Catania, in provincia di Caltanissetta, è scattato lo stop ai tir nel tratto tra lo svincolo di Tremonzelli e Mulinello. Il traffico pesante è deviato su strade statali e provinciali, con un allungamento del percorso di oltre 40 km. E poi il nodo di Genova, attenzione, sulla 10, la Genova-Savona, per consentire le ispezioni programmate nelle gallerie per 2 notti consecutive. Quelle di mercoledì e giovedì dalle 22 alle 6 sarà chiuso il tratto compreso tra l'allacciamento con la 26 e Arenzano in direzione Savona. E ora in Europa è stato fatto un altro passo avanti verso il varo del pacchetto mobilità. La Commissione Trasporti del Parlamento Europeo ha infatti approvato senza apportare modifiche il testo che a dicembre aveva ottenuto il via libera del trilogo. Nel frattempo a livello continentale restano sul tappeto alcune questioni particolarmente calde, dai divieti dell'Austria al Brennero alle incertezze legate alla Brexit fino alla questione del negoziato sul noleggio dei mezzi. Se ne è parlato nei giorni scorsi al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture nella riunione di consultazione sul trasporto internazionale. Sulla questione del noleggio, Confartigianato Trasporti ha ribadito che l'entrata in vigore della nuova normativa dovrà essere subordinata all'introduzione dei controlli informatici previsti con il nuovo cronotachigrafo intelligente. Novità in materia di formazione conducenti che operano nel trasporto merci. Il Consiglio dei Ministri ha recepito una direttiva europea che amplia gli obblighi di qualificazione, prima previsti solo per i conducenti che effettuavano professionalmente trasporti di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C e D. L'aggiornamento dai mercati oggi arriva da rimorchi e semirimorchi. Il 2019 si è chiuso in negativo meno 7,1%, sul dato pesa il crollo registrato a dicembre, meno 17% rispetto a 12 mesi prima. Termina qui oggi hashtag autotrasporti, vi ricordo l'appuntamento del sabato, Massimo De Donato in onda con un approfondimento su questi temi in container, appuntamento alle 13.15 del sabato, lo ricordo, noi ci risentiamo con questo programma lunedì alle 13.45, la linea al GR da Andrea Ferro, una buona giornata. Hashtag autotrasporti, in collaborazione con l'Albo Nazionale degli Autotrasportatori.